Il cardinale, con servio in vincoli, sta nella torre profonda prigioniero, catene ai piedi e manette alle mani, pesanti in vero più di 3 tonnellate. Li guarda tutti un istante, occhio destro chiuso sbarrato, guancia sinistra gonfia. Poi, non potendo trattenere le risate, ondeggia di qua e di là con le mani sulle anche. E canta con spirito esuberante burlone. Oh, povero, povero piccolotto, aveva le gambe gialle di sotto. Era paffuto, grasso e grosso, e vivace come un merlotto. Ma un fottuto scalcagnoccolo, per pappargli il bianco broccolo, di Neil Flyer ti ammazzò l'anatroccolo. Una moltitudine di pappataci gli formicola bianca sul manto. Si gratta le costole con le braccia incrociate. Fa una smorfia ed esclama: Soffro le pene dell'inferno! Per il sacro mandolino, grazie sia rese a Gesù che tutti quei piccolini non sono d'accordo. Se lo fossero, m'avrebbero già spazzato dalla faccia di questa terra fottuta. Con la testa piegata, benedice sommariamente con l'indice e il medio, impartisce il bacio pasquale e fa una buffa uscita a passo doppio, dondolando il cappello da una parte all'altra. Riducendosi rapidamente alle dimensioni dei suoi reggicoda. Gli accoliti nani, ridacchiando, sbirciando, dandosi gomitate, occhieggiando, mandandosi baci pasquali, gli zigzagano dietro. Si sente la sua voce tenera in lontananza, misericordiosa, maschile, melodiosa. Ti porterà il mio cuore. Ti porterà il mio cuore, il respiro della notte profumata, ti porterà il mio cuore. La maniglia col trucco gira da sé. La maniglia. Zoe, c'è il diavolo in quella porta. Una sagoma maschile scende giù dalle scale scricchiolanti e si sente che prende dall'attaccapanni impermeabile cappello. Bloom fa involontariamente un passo avanti e, chiudendo a metà la porta nel passare, si leva la cioccolata di tasca e la offre nervosamente a Zoe. Zoe gli annusa i capelli vivacemente. Ringrazia la mamma per i conigli. È tutto bello quel che mi piace. Bloom, sentendo una voce d'uomo a colloquio con le prostitute sulla soglia di casa, drizza le orecchie. Se fosse lui. Dopo? O perché no? E se facesse la doppia? Zoe, strappa la stagnola. Prima le dita e poi vennero le forchette. Morde un pezzetto e lo sgranocchia, ne dà uno a Kitty Ricketts e poi si volta verso Lynch con una mossa da gattina. Che ne dici d'una compressa purgativa? Egli annuisce, lei lo rimbrotta. La vuoi ora o la vuoi quando la prendi? Lui apre la bocca a testa in su. Lei fa girare il boccone da destra a sinistra. La testa di lui accompagna il movimento. Lei fa girare la mano in senso contrario da sinistra a destra. Lui la adocchia. Prendi! Gli tira un pezzetto. Lui lo piglia al volo e lo si sente scricchiolare sotto i suoi denti. Kitty, masticando. L'ingegnere che stava con me alla pesca di beneficenza ne aveva disquisiti, pieni dei migliori liquori. E c'era anche il viceré con la signora. Quante ne abbiamo dette sui cavallini della giostra di Toft? O ancora il capogiro. Bloom, in un soprabito di pelliccia alla Svengali, braccia incrociate e ricciolo napoleonico. Fissa, accigliato, la porta con penetrante occhio d'aquila in esorcismo ventriloquiale. Poi, rigido, col piede sinistro in avanti, fa un rapido cenno convenzionale con dita imperative e fa il segno del Gran Maestro, lasciando cadere il braccio destro di sulla spalla sinistra. Va, va, va, ti esorcizzo, chiunque tu sia. Una tosse maschile e dei passi si sentono affievolire nella nebbia all'esterno. I lineamenti di Bloom si distendono. Si infila una mano nel panciotto, posando tranquillamente. Zoe gli offre la cioccolata. Bloom, solennemente, grazie. Zoe, fa come ti dicono, avanti. Si sente un solido battere di tacchi per le scale. Bloom prende la cioccolata. Afrodisiaca? Erba amara e menta. Ma l'ho comprata! La vaniglia calma i nervi. Oppure? Mnemo. Luce confusa, confonde la memoria. Il rosso ha un certo influsso sul lupus. I colori influiscono sul carattere delle donne, se mai l'hanno. Questo nero mi rattrista. Mangia e godi perché domani. Mangia. E ha effetto anche sul gusto il lilla. Ma è parecchio che non. Sembra nuovo. Afro. Quel prete. Bisogna arrivarci. Meglio tardi che mai. Provare i tartufi da Andrews. Si apre la porta. Entra Bella Cohen, l'imponente madama. Indossa un tre quarti avorio con un vivagno di nappine lungo l'orlo e si fa vento con un ventaglio di corno nero come Minnie Hawk nella Carmen. Alla mano sinistra ha una fede e un altro anello, gli occhi abbondantemente dipinti a carboncino, baffetti incipienti, la faccia olivastra e pesante e un tantino sudaticcia. Il naso è grosso, con narici ritoccate in arancione. Ha due grossi orecchini a pendente di berillo. Bella. Parola mia, son tutta sciolta in brodo. Dà un'occhiata alle coppie intorno a sé. Poi i suoi occhi si posano su Bloom con insistente durezza. Il grande ventaglio le spazza l'aria contro il collo viso surriscaldato e le rotondità. Gli occhi di falco mandano lampi. Il ventaglio, svolazzando velocemente. Poi più lentamente. Sposato, vedo. Bloom. Sì, in parte. Ho smarrito il ventaglio, semiaperto, poi chiudendosi. E la padrona la fa da padrone. Governo di gonnelle. Bloom abbassa gli occhi con un sorriso timido. È così. Il ventaglio, chiuso del tutto, si appoggia all'orecchino sinistro. Mi hai dimenticato? Bloom. So, il ventaglio chiuso e appoggiato all'anca. Son io, era lei che avevi sognato. Era poi lei, lui, te, noi che poi hai conosciuto. Son io, tutti loro e lo stesso ora noi. Bella s'avvicina dandogli dei colpetti col ventaglio. Bloom, trasalendo. Creatura possente. Negli occhi miei legger tu puoi il sopore che delle donne intenerisce il core. Il ventaglio, con dei colpetti. Ci siamo trovati, tu sei mio, è il mio destino. Bloom, soggiogato. Femmina esuberante, infinitamente io bramo il tuo dominio. Sono esausto, abbandonato, non più giovane. Sono, per così dire, come una lettera non impostata con la francatura della soprattassa, davanti alla cassetta dell'ultima levata dell'ufficio centrale delle poste telegrafi della vita umana. La porta e la finestra, aperte ad angolo retto, provocano un riscontro di 32 piedi al secondo in base alla legge di gravità. Ho avvertito in questo istante uno spasimo di sciatica al muscolo gluteale sinistro. Male di famiglia. Il povero babbo che era vedovo era come un barometro quanto a questo. Credeva nel calore animale. Aveva il panciotto d'inverno foderato di pelle di gatto. Alla fine dei suoi giorni, memore di Re David della Sulamita, divideva il suo letto con Athos, fedele anche dopo morto. La bava del cane, come lei probabilmente, trasalisce. Ah! Richie Goulding, gravato di borsa, oltrepassa la soglia. Piffero di montagna! Il più conveniente di Dub, mangiare da principi, fegato e rognoni, il ventaglio, con dei colpetti. Tutto finisce, sì mio, ora. Bloom, indeciso, proprio ora non mi dovevo separare dal mio talismano. La pioggia, il rimanere esposti all'aria rugiadosa della notte in riva al mare, un peccatuccio alla mia età. Ogni fenomeno ha una causa naturale. Il ventaglio punta lentamente verso il pavimento. Lo puoi fare. Bloom guarda in giù e scorge la stringa sciolta di lei. Ci stanno guardando. Il ventaglio punta in giù rapidamente. Devi. Bloom con desiderio, con riluttanza. So fare un vero nodo da marinaio. imparato quando facevo il mio apprendistato di spedizioniere postale da Kellett. Ci ho fatto la mano. Un nodo ti dice tutto. Permetta, per cortesia. Mi sono già inginocchiato una volta oggi. Ah! Bella alza un tantino la gonna e, assicurandosi l'equilibrio, posa sull'orlo d'una sedia una grossa zampa e un cosciotto foderato di calza di seta e scarpino di cuoio. Bloom, a gambe rigide, piuttosto anziano, si curva sulla zampa e con dita gentili finisce di sciogliere e riannoda la stringa. Bloom mormora amorosamente. Fare il commesso del negozio di calzature di Mansfield è stato il mio sogno di gioventù. Le deliziose ebbrezze del laghetto per le stringhe, allacciare da sinistra a destra e da destra a sinistra fino al ginocchio gli eleganti stivaletti di camoscio foderati di raso. Così incredibilmente e impossibilmente piccoli, delle belle signore di Clyde Road. E poi quel manichino di cera Raymond, che andavo a vedere tutti i giorni per ammirare le calze fini come ragnatele e l'alluce a stelo di rabarbaro come s'usa a Parigi. La zampa. Odora un po' la mia pelle di becco calda. Senti che razza di peso. Bloom, incrociando la stringa. Troppo stretta. La zampa. Se fai pasticci, mascherina, ti do un calcio dove mi intendo io. Bloom. Attenzione a non sbagliare occhiello come quella sera del ballo di beneficenza. Mena Gramo, dentro l'altro buco del suo, la persona che ha nominato. Quella sera incontrò. Eccoci. Annoda la stringa. Bella rimette il piede in terra. Bloom alza la testa. Il viso pesante e i suoi occhi lo colpiscono in piena fronte. Gli occhi di Bloom si velano, si incavano in occhiaie e borse profonde. Il naso gli si ispessisce. Bloom borbotta. In attesa di ulteriori ordinazioni, noi restiamo, signori. Bello, con duro sguardo da basilisco e voce baritonale. Cane ignobile. Bloom infatuato. Mia imperatrice. Bello, pesanti gote bracciole che si afflosciano. Adoratore del deretano adulterino. Bloom, lamentosamente. Immensità. Bello. Divoratore di sterco. Bloom, con le giunture semiflesse. Magnificenza. Bello. A terra. Le dà un colpo di ventaglio sulla spalla. Chinati coi piedi in avanti, un passo indietro col piede sinistro. Tu caschi, stai per cascare. Giù sulle mani. Bloom, gli occhi alzati in segno d'ammirazione, stanno per chiudersi. Abbaia. Tartufi! Con un grido lacerante da epilettica cade su quattro zampe, grugnendo, stronfiando, grattando ai piedi di lui. Poi si mette a giacere, facendo finta d'essere morta, con occhi sprangati, palpebre tremanti, curva a terra nell'atteggiamento del padrone riverito. Bello. I capelli alla maschietta, le branchie violacee, cerchietti di folta peluria attorno alla bocca ben rasata, mollettiere da montanaro, giacca verde con bottoni d'argento, camicia sportiva e cappello da alpino con penna di gallo cedrone, le mani affondate nelle tasche dei calzoncini, le mette il piede sul collo e glielo calca sopra. Sgabello! Prova tutto il mio peso! Inchinati! Vile schiava, davanti al trono dei tacchi gloriosi del tuo signore despota che brillano nella loro altera erezione. Bloom, magata, vela. Prometto di non disobbedire mai. Bello, ride forte. Samme la fumo. Non ti sogni neanche quel che ti aspetta. Sono io quello che ti regolerà i conti e ti sistemerà a dovere. Pagherò da bere se non ce la fo a cacciarti gli uzzoli di dosso, amico bello. Alza la cresta se hai coraggio, se vuoi farlo. Trema in attesa della medicina del tacco che ti sarà inflitta in maglietta e mutandine. Bloom striscia sotto il sofà e sbircia di tra le frange. Zoe, spiegando la combinazione per ripararla. Qui non c'è. Bloom, chiudendo gli occhi. Qui non c'è. Flory, nascondendola con la veste. Non l'ha fatto apposta, mister Bello. Starà buona, signore. Kitty, non siate troppo duro con lei, mister Bello. Non lo farete, vero, signor, signora? Bello, mellifluo. Vieni, paperina mia, voglio dirti una parolina. Amore, solo perché tu ti corregga. Due paroline col cuore in mano, cuoricino mio. Bloom mette fuori timidamente la testa. Ecco, ora sì che è una brava bambina. Bello le abbranca violentemente i capelli e la trascina fuori. Voglio solo correggerti per il tuo bene in quel posticino dove c'è del morbido. Come sta quel cuscinetto tenero? Oh, farò piano piano. Bella di mamma, comincia a prepararti. Bloom, venendo meno. Non mi strappare. Bello, selvaggiamente. L'anello nel naso, le tenaglie, le verghe, l'uncino, lo gnut, te li farò baciar tutti a suon di flauti come toccò alla schiava nubiana del tempo antico. Stavolta ci sei cascata in pieno. Ti dovrai rammentare di me, vita natural durante. Le vene della fronte gonfie, il viso congestionato. Mi metterò a sedere tutte le mattine sulla tua sella sofà. Dopo una colazione numero uno di fette di lardo Matterson ben fritte e una bottiglia di birra Guinness, rutta, e succhierò il mio sigaro numero uno da agente di borsa leggendo la gazzetta dell'alimentarista. Ed è anche probabile che ti faccia macellare e schidionare nelle mie stalle per papparmi una fetta di te con un pezzetto di cotenna ben rosolata, appena uscita dal forno. E irrorata di burro come un porcellino di latte con riso e limone o salsa di ribes. Ti dorrà! Le torce un braccio. Bloom stride, rivoltandosi sulla schiena. Bloom, non essere cattiva, tata! No, no! Bello, torcendo. Un'altra volta! Bloom urla. È un inferno! Mi sento straziare tutti i nervi a uno! Bello, grida. Bene, perbacco, bacchino, baccone, è la più bella notizia che sento da 6 settimane a questa parte. Su, non mi far perdere tempo, accidenti a te. Le dà un ceffone. Bloom, piagnucola. Lei mi vuole picchiare, lo dirò. Bello, tenetelo giù, ragazze, che gli voglio montare addosso. Zoe. Sì, andarci a spasso sopra, anch'io. Flory, anch'io allora, non essere ingorda. Kitty. No, io, prestatelo un po' anche a me. Appare alla porta la cuoca del bordello, Mrs. Keogh, rugosa, grigio barbuta, col grembiulino bisunto, calzini da uomo grigi e verdi e scarponi, infarinata, un mattarello con dei pezzetti di pasta cruda ancora attaccati, brandito dalla mano e dal rosso braccio ignuno. Mrs. Keogh, ferocemente, posso far qualcosa anch'io? Tengono Bloom ben fermo.